passo la parola a Francesca e a Oreste, sapendo che ci parleranno sia di cose che avvengono altrove e sia di cose che avvengono qui, e in particolare anche delle lotte che stanno avvenendo qui. Loro fanno parte entrambi del collettivo di lettere, quindi sono state tutte e due nelle mobilitazioni di questi mesi, e lascio la parola a loro. Grazie. Grazie prima di tutto dell'invito. Io faccio sono Oreste, insieme a Francesca, appunto, siamo militanti del collettivo di lettere della Sapienza. E vabbè, senza che sto a raccontare tutta la storia della mobilitazione, l'ultima forma che abbiamo dato alla nostra mobilitazione sarà quella delle tende in Sapienza, che ha avuto anche un relativo impatto mediatico. Quindi, insomma, c'è stata tutto un anno di lotta che ci ha molto, cioè, ha visto un ritorno del protagonismo studentesco, secondo me, in tutta Italia, in tutto il mondo. E, vabbè, io sono qui per introdurre un tema che è quello della complicità, per esempio, della nostra facoltà di lettere, in particolare del Dipartimento di Archeologia e di Scienze dell'Antichità, con il sistema di apartheid coloniale israeliano. E perché la nostra mobilitazione, diciamo, da cosa è partita? Cioè, alla base della nostra mobilitazione abbiamo messo una coscienza del nostro ruolo come studenti e studentesse nella società, cioè, e della coscienza che l'università svolge nel sistema produttivo capitalista coloniale. Cioè, come studenti e studentesse ci siamo dette: l'università, appunto, dall'università parte un certo tipo di produzione culturale, un certo tipo di produzione non solo culturale, ma la ricerca che viene applicata anche in ambito bellico. Cosa possiamo fare per fermare ciò? Come possiamo inceppare questo ingranaggio che porta al genocidio in Palestina, ma che parte dai nostri luoghi del sapere, appunto? Come possiamo riappropriarci del sapere? Come possiamo studiare quello che vogliamo, come lo vogliamo, e senza che questo porti a dinamiche di oppressione? La forma, diciamo, lo strumento che abbiamo ritenuto più adeguato è quello del boicottaggio accademico, in particolare con le università israeliane, che è una lotta che ha, diciamo, anni di storia, che però ha visto le sue più importanti vittorie nell'ultimo anno, perché è stato, diciamo, un boicottaggio accademico, è stato richiesto non solo da noi studenti della Sapienza, ma in tutta Italia, in tutto il mondo, in tutte le università del mondo, e molte università hanno iniziato a sospendere e a revisionare gli accordi con le università israeliane. In Italia l'Università di Palermo è stata, diciamo, l'ultima a ottenere ciò. E il boicottaggio accademico perché le università israeliane, oltre a sorgere su territori occupati e quindi essere per loro natura, insomma, un'istituzione che legittima la presenza di colonie su quel territorio, le università israeliane si impegnano molto nel, appunto, giustificare, legittimare e continuare a produrre un tipo di sistema di oppressione, e quindi abbiamo un po' cercato di sottolineare questo paradosso, questa contraddizione da parte di chi, come le nostre istituzioni, difendono la libertà della ricerca, la democrazia, eccetera. Abbiamo fatto vedere come fosse in contraddizione portare avanti questi accordi con università israeliane e questi accordi con aziende della guerra, come sono Leonardo, SPA ed ENI, con cui la nostra università ha accordi economici e didattici. In particolare, stavo dicendo, il nostro Dipartimento di Scienze dell'Antichità ha un accordo che vede la realizzazione di uno scavo a Gerusalemme Est, e abbiamo fatto emergere questa cosa nel nostro Dipartimento. Abbiamo iniziato a creare una rete con docenti che sappiamo, insomma, essere compagni e compagni, insomma, solidali in determinate lotte. E, diciamo, è un percorso che abbiamo avviato, quello di, a partire dai singoli dipartimenti, di cercare di boicottare questo sistema, proprio per recuperare quel senso che dovrebbe essere il ruolo dell'università in una società, cioè quello di mettere in dubbio la realtà e non di giustificarla, cioè quello di, diciamo, svincolarsi dalla dipendenza dal potere economico, come invece è adesso per produrre sapere critico. Invece noi frequentiamo ormai università che sono asservite al potere economico, che sono sempre più aziendalizzate, e questo ovviamente è un qualcosa che ha tenuto insieme le proteste non solo a Roma ma in tutta Italia, in tutto il mondo, come ho già detto. Appunto, Francesca parlerà di un po' di come nello specifico questo accordo che abbiamo a lettere con l'Università di Tel Aviv continua, insomma, in qualche modo legittima e giustifica quello che è un sistema di oppressione sionista in Palestina. Buonasera a tutte e tutti, appunto io sono Francesca, una studentessa di archeologia del collettivo di lettere in Sapienza. E quindi, come ha detto prima Oreste, noi abbiamo iniziato questo percorso, ogni singolo collettivo in Sapienza all'interno della propria facoltà, di studiare in maniera capillare gli accordi che la Sapienza ha con le università e le istituzioni israeliane, in modo tale appunto da fare un lavoro capillare e meticoloso, più facilmente attaccabile. E noi nella nostra facoltà di lettere appunto abbiamo questo accordo con l'Università di Tel Aviv, che in realtà non è neanche molto trasparente, perché poi queste cose funzionano così, e insieme c'è lo scavo che è diretto dal Dipartimento di Scienze delle Antichità al Santo Sepolcro, Gerusalemme Est, che inizia dal 2019, ma comunque è stata solo un'attività di studio e rilievi archeologici, però dal 2022 è partito lo scavo vero e proprio, quindi il cantiere archeologico, e questo, come è scritto anche nel comunicato Sapienza, ha avviato delle collaborazioni, hanno ovviamente avuto una licenza da parte delle autorità israeliane, perché appunto si è aperto un cantiere. E questo è importante sia nel ciclo di boicottaggio accademico, però anche per avviare una determinata narrazione sull'importanza che ha l'archeologia in questa situazione, perché è importante anche far trapelare l'informazione, la narrazione di come da sempre Israele ha utilizzato l'archeologia, sia lo scavo archeologico in sé, sia poi la ricostruzione storica che ne trae dalle prove archeologiche ai fini della colonizzazione. Quindi ha tantissime sfaccettature questa cosa. E anzitutto l'archeologia e quindi lo scavo archeologico è in sé una confisca di aree in cui si apre effettivamente un cantiere, e che è da sempre stato utilizzato sin dal 1967 con l'occupazione dei territori, appunto dei territori occupati palestinesi, è da sempre stato utilizzato come modalità di confisca di aree, apertura di un cantiere archeologico, che poi ha portato fattivamente a creazione all'epoca di enormi tunnel che passavano sotto la città, sotto Gerusalemme Est, e anzitutto distruggevano edifici pubblici e privati del popolo palestinese, e appunto creavano danni strutturali sia a case private ma anche e soprattutto a, perché poi erano in punti strategici, cioè il primo tunnel è stato scavato sul lato di una moschea, della moschea di Gerusalemme Est, quindi era anche un modo per distruggere i luoghi di culto del popolo palestinese. Quindi di per sé il cantiere archeologico è uno strumento di occupazione proprio fisicamente, e poi contribuisce al revisionismo storico che da sempre Israele ha interesse a portare avanti, anche realizzando degli scavi archeologici non metodologicamente corretti, perché insomma già quando iniziava con questi tunnel non è metodologicamente corretto, si capisce bene perché insomma scavare un tunnel e sterrare non è archeologia, E soprattutto crea poi danni, effettivamente toglie case e edifici pubblici e privati al popolo palestinese. Quindi, oltre a questo, ovviamente Israele si è reso, insomma, colpevole di distruzione di musei, di archivi. Anche questa cosa è un aspetto, insomma, da porre, da sottolineare, di biblioteche, di università, lo sappiamo benissimo ormai a Gaza. E quindi tutto questo rientra in un modo strategico, strumentale di distruggere il patrimonio culturale palestinese e sfruttare l'archeologia e gli scavi archeologici per ricercare le prove archeologiche di una legittimità della propria presenza nella Palestina storica, quindi ricostruire la storia della Palestina storica come la storia della propria patria nazionale. City of David è ad esempio un progetto finanziato dal governo israeliano in primis proprio per ricostruire, ma anche con immagini, perché poi appunto tutte queste aree sì sono confiscate per scavi archeologici eccetera, però poi sono anche si allestisce aree turistiche, archeologiche, che anche nell'immaginario passano il messaggio che quella è proprio la città di Davide eccetera, quindi dimenticando completamente, gettando nell'oblio tutti gli strati, per parlare archeologicamente, arabi, e mettere in luce con in una mano il piccone e nell'altra la Bibbia, probabilmente andando a ricercare la legittimità archeologica della propria presenza in quei luoghi. Tra l'altro, come scavo a Gerusalemme Est, il Dipartimento collabora con l'Autorità Israeliana per l'Antichità. Si è anche invitato negli ultimi anni i loro esponenti in Sapienza per, insomma, tenere seminari, lezioni, eccetera. E andando anche un po' a vedere di che entità si sta parlando, è comunque un'autorità fortemente legata al governo israeliano, all'esercito israeliano, alle forze dell'IDF. Basti pensare che dall'autorità per le antichità israeliane sono stati dal 7 ottobre anche arruolati degli archeologi per aiutare nelle ricerche delle vittime israeliane del 7 ottobre, quindi cioè, anche questa cosa è anche da sottolineare, e soprattutto loro esercitano un forte controllo poi sugli scavi archeologici, su quello che ne esce, sull'interpretazione da dare, quindi c'è anche un forte controllo. E quindi noi come studenti, studentesse di l'università in generale e di archeologia in particolare, è anche bene sensibilizzare a prendere una posizione politica importante, perché l'archeologia è inseparabile dalla politica, perché partecipa alla ricostruzione storica e quindi all'identità nazionale di un popolo, e in questa situazione, come in tantissime altre di colonialismo, è sempre stata sfruttata ai fini del colonizzatore, andando ad eclissare completamente la storia e poi fisicamente il patrimonio culturale, il territorio dei popoli oppressi. Quindi questa è la narrazione che stiamo cercando di far emergere in facoltà, e soprattutto poi cercare di bloccare questo scavo, rescindere questo accordo, e in questo senso, ecco.